Carissimi ascoltatori di Radio Alma, la Terra Sonora e Cuore di Poesia, questa è una puntata davvero speciale che sono molto contento di presentare per voi perché ascolteremo insieme il nuovo disco degli Alma Megretta. Il disco si chiama Dub Fellas, il secondo volume. A parlarne con noi, uno dei creatori di questo disco, Gennaro Otti, appunto degli Alma Megretta. Benvenuto, benvenuto Gennaro. Ciao, grazie. Allora, con Gennaro parliamo un po' di questo disco, che è il secondo volume del percorso che gli Alma Megretta hanno cominciato nel 2006, quando presentavano il primo volume di Dub Fellas. Io vorrei, insomma, tu ci raccontassi un pochettino di questo percorso, di come avete deciso di intraprenderlo e di come siete poi arrivati anche a questo secondo volume. Sì, in effetti nel 2006, quando è uscito il primo volume, insomma, la cosa nasce un po' per caso, perché ci fu una Rai Trade, che insomma, è un'etichetta, no? Della Rai che si occupa di distribuzione di CD e quant'altro, ci chiese un disco. Noi in tempi tra l'altro brevissimi, avevamo pochissimo tempo. Per cui decidemmo di accettare questa sfida facendo un disco strumentale che fosse prettamente dub. E così fu, insomma, lo facemmo un pochissimo tempo, ci divertimmo molto a farlo perché non sentimmo, diciamo, la responsabilità che di solito si sente quando devi fare un disco. E quindi poi ne è uscito fuori un disco che ci è piaciuto molto e che poi in seguito ci ha dato parecchio soddisfazioni. E quindi abbiamo pensato poi di continuare questo discorso, insomma, e di fare uscire un disco periodicamente che avesse programmaticamente l'obiettivo di ricerca, di sperimentazione, soprattutto del suono. E sono un percorso più sperimentale, insomma, una sorta di side project in cui è tralasciata volutamente la forma canzone, cercando di muoversi con molta più libertà. Anche perché poi nel frattempo è uscito un altro vostro disco, Vulgus. Vulgus, nel quale Sì. insomma c'è appunto la forma canzone da quale parli. Sì. Quindi sono dischi che comunque diciamo la strada main, no, Sì. principale, e poi c'è quest'altro percorso parallelo che però ci sta piacendo sempre di più, insomma, lavorarci. Quindi questa volta avete avuto, diciamo, ci avete lavorato un pochettino di più rispetto al Sì, primo, sì, visto sì, che sì. No, quello è stato cotto e mangiato, diciamo così. questa è stata poi una nostra decisione autonoma, insomma, di continuare Certo. a pubblicare questo disco, quindi è stato dedicato più tempo alla produzione. E tra l'altro, vabbè, non è strumentale come il primo, nel senso che ci sono molte più voci rispetto all'altro episodio. E pure qui, insomma, inizialmente parte come un disco che voleva essere sostanzialmente strumentale, ma poi con il nuovo nostro vocalist che si chiama Marcello Coleman, con cui collaboriamo ormai quasi da 2 anni, ma era una collaborazione che svolgeva soprattutto per quanto riguarda il live, insomma, abbiamo fatto un sacco di concerti insieme, per cui si è creato un buon affiatamento, una grande intesa e chiaramente poi questa cosa ha avuto il suo sbocco discografico, insomma, in effetti è la prima volta che lui partecipa a un lavoro discografico degli Alma Megretta dopo aver appunto suonato con noi per un paio d'anni. E lui, insomma, ha cantato varie tracce, siccome sono tutte molto belle, noi abbiamo deciso di utilizzarle, insomma, senza stare A pensarci troppo. a pensare, perché insomma, tra l'altro poi la voce è usata più come uno strumento che in maniera narrativa, per cui è tutto molto congeniale quello che è il progetto. Allora, Gennaro, io intanto comincerei con l'ascolto del disco. Apriamo, oltre che le chiacchiere, l'ascolto appunto di Dub Fellas, il secondo volume di Alma Megretta. Ci ascoltiamo subito la prima canzone del disco, si chiama My Time, e tra poco torniamo a chiacchierare con te. Abbiamo ascoltato My Time, primo episodio, prima traccia di questo lavoro dub degli Alma Megretta. Io vorrei che tu, così in poche parole, per chi magari non è un po' dentro a questo genere musicale, magari ascoltando questa puntata della Terra Sonora vorrà poi, come dire, approfondire la conoscenza con questo genere musicale di sperimentazione, ci spiegassi un po' che cos'è in realtà il dub. Sì. Beh, innanzitutto volevo dire due cose sul brano che abbiamo ascoltato, che certo. È il primo brano in cui già ci sono sono due collaborazioni per noi importanti, che sono la voce che è di Julie Higgins, che è una cantante inglese che ha collaborato con noi già dai tempi di Lingo, poi ci siamo rincontrati pure con Vulvus e in ultimo questo... ultima esperienza. In più c'è la collaborazione poi che c'è pure in altri pezzi, ma tra l'altro pure Giulia la ritroveremo più avanti nel disco, di Neil Perch, che è il fondatore degli Zion Train e che credo a Bruxelles, insomma, sì, è molto conosciuto, insomma, perché vedo che spesso viene a suonare lì. Insomma, pure in questo caso noi abbiamo fatto con Neil diversi concerti l'anno scorso e poi abbiamo deciso di continuare la collaborazione pure a livello discografico, ed è stata un'esperienza pure questa che, come al solito, insomma, ci ha arricchito ulteriormente. Tra l'altro c'è stata una fase in cui abbiamo lavorato proprio a distanza, perché lui si trovava da una parte del globo e noi da un'altra, e quindi siamo scambiati file via internet. Bene, almeno insomma, questa tecnologia che spesso è bistrattata, evidentemente per quanto riguarda l'arte, un certo tipo di arte invece è importante. Noi infatti veramente per quanto riguarda la tecnologia abbiamo avuto sempre un rapporto molto stretto e proficuo, direi, ma a partire dal primo disco. E tra l'altro, questo ricollegandosi alla domanda che facevi sul dub, il dub è una musica che si avvale da quando nasce della tecnologia. Appunto, quando nasce in Giamaica alla fine degli anni 60, quando facevano il side B del 45 giri, che era una versione strumentale con soprattutto messi in risalto, insomma, molto asciugato, messi in risalto basse batterie, cioè la ritmica, con qualche traccia di voce aperta ogni tanto, di altri strumenti che c'erano, ma aperta appunto episodicamente, insomma, l'ossatura di questa version, soprattutto di basse batterie, in più con degli effetti che sono cose tipo echi, riverberi ed altre cose, insomma, che passano per il mixer e fanno sì che il mixer diventi uno strumento vero e proprio, cioè il mixer non è più quella macchina neutra che cerca solo di migliorare il suono, ma lo trasforma, lo altera, lo rende insomma un suono malato, diciamo. Un suono diverso comunque. Sì, insomma, sì, cioè proprio la versione, diciamo, psichedelica di quella che era la canzone cantata. Allora, partendo da qui, poi la cosa si è estesa in moltissimi generi, ma soprattutto nell'elettronica. E infatti Dub Fellas 2 è un disco, soprattutto poi, se proprio insomma, lo vogliamo catalogare, è un disco di musica elettronica, secondo me. Bene. Mentre rispetto all'altro era più legato al reggae, qui invece si spazia di più su vari generi. C'è un po' più di sperimentazione, diciamo, elettronica, si allarga un po' la strada della sperimentazione. Bene, ne ascoltiamo un altro esempio, la seconda canzone del disco, Dub Fellas, il secondo volume, Healing Step, l'ascoltiamo e torniamo tra pochissimo con Gennaroti e gli Alma Megretta. La Terra Sonora Cuore di Poesia vi sta presentando il nuovo disco degli Alma Megretta e lo stiamo facendo con non soltanto uno dei fondatori del gruppo, ma da quello che sto insomma imparando parlando con lui, anche uno di coloro che secondo me ha spinto di più per questo secondo volume, o no, Gennaro, è così? effetti, hai indovinato. Il tuo entusiasmo, diciamo, nel parlarne mi sembra che sia una buona prova. Volevi dire qualcosa anche sul pezzo che abbiamo appena ascoltato? Perché poi tra poco parliamo di. Instek è un altro pezzo con cui abbiamo collaborato con Nile, e secondo me si sente molto la sua impronta, insomma, l'incedere della ritmica è proprio molto legato, insomma, all'esperienza Zion 3. E poi parleremo anche un po' della voce, di come sono state inserite le varie voci. Adesso credo che l'altro episodio che stiamo per ascoltare è molto vicino a quello che abbiamo appena ascoltato, no? PPP. Mi Sì, racconti un po' di questo? è infatti un altro disco. Questo è proprio un disco, cioè un brano che nella sua ossatura all'inizio è partito da Nile, no? Lui ci ha mandato questi primi file, già col titolo che è PPP. Poi vabbè, insomma, noi ci abbiamo lavorato, insomma, la cosa si è trasformata, ma poi insomma, abbiamo chiesto a Nile: ma che è su PPP? E lui ha detto: è prostitute per il presidente, dato che Ah. prostitute, secondo me lui, insomma, non parla proprio italiano, parla benissimo, però ogni tanto si confonde con i prostituti per il presidente. Ci sono Allora, anche insomma, quelli, ci sono ci anche siamo quelli. capiti. Esatto. E noi l'abbiamo lasciato così nella libera interpretazione di chi, insomma, perché è difficile andare, no, a Certo. capire cosa veramente significa. Quindi, insomma, quella che stiamo per ascoltare è un pezzo nato da un file mandato. Voi avete poi, come dicevi tu, insomma, inserito nel mixer questo file, è venuto fuori questa PPP. Adesso ce l'ascoltiamo e torniamo tra poco ancora con le chiacchiere intorno a Dubfellas Volume 2, il nuovo disco bellissimo degli Alma Megretta. A libera interpretazione, quindi anche il titolo, ma ne abbiamo scoperto perlomeno la nascita di questo PPP. Siamo con Gennaro T e stiamo presentando qui alla Terra Sonora Cuore di Poesia il disco degli Alma Megretta. Le sperimentazioni delle quali parliamo in questo disco, come nascono in realtà? Nel senso, è tutto fatto in studio, le idee vengono in studio, oppure c'è comunque una sorta di strada che tu, ad esempio, tu hai già in mente, no? C'è questa linea di basso, ad esempio, questa linea di batteria, da quella si parte, oppure c'è un suono da quale si parte, uno Vabbè, il spunto? suono, diciamo che ormai il suono che esce fuori dai nostri dischi è quello lì che, insomma, in qualche modo ci fa riconoscere, ma io vedo che esce proprio quasi indipendentemente dalla nostra volontà. Ormai se siamo noi in studio, insomma, esce quella roba lì. E quindi, insomma, è quasi il nostro marchio. Che va al di là proprio del lavoro. Evidentemente facciamo determinate operazioni che le facciamo senza neanche accorgercene, che danno poi origine a quel tipo di sound. Ma per quanto riguarda poi quello che uno ha in mente prima, molto spesso si parte da una piccola idea, insomma, e poi si sviluppa, insomma, tenendo presente dove uno vuole arrivare, insomma, tipo di, soprattutto per quanto riguarda dischi come questo, dove appunto l'ambientazione sonora è la parte principale, è importante capire che tipo di, diciamo, suggestione tu vuoi dare all'ascoltatore. Certo, e voi avete, o perlomeno insomma, una sorta di punti di riferimento? Come si fa appunto ad arrivare a questo tipo di sperimentazione? La Ma si apprende un po' da soli oppure si ascoltano No, dischi? la cosa principale, almeno questa è la nostra esperienza, è ascoltare molti dischi. Innanzitutto di quel genere, di quel tipo di approccio che a te piace, insomma, no? E io credo che questo gruppo, questo progetto, cioè gli Alma Megretta, nascono proprio dall'ascolto di determinati dischi. Cioè, io mi ricordo benissimo quando, insomma, abbiamo scoperto dei dischi e siamo rimasti folgorati, abbiamo detto: questa è la strada che noi vogliamo intraprendere. Beh, poi non è che tu dici: questo è quello che voglio fare io, cioè sono Certo. cose che ti colpiscono talmente tanto che tu in qualche modo le interiorizzi e poi escono fuori, insomma, quando meno te le aspetti. Ma la cosa principale è stato appunto proprio le prime volte che abbiamo ascoltato il dub, insomma, perché noi nasciamo con un approccio, diciamo, più reggae, no? Così, Sì. insomma, abbastanza normale, reggae, insomma. E poi la cosa, ma già in questo, diciamo, dalle prime esperienze discografiche già è presente il dub, insomma, per cui è stato già dall'inizio un elemento in più. Che però il dub, perché il dub? Perché evidentemente per noi è stato molto più congeniale il fatto di aggiungere a questo tipo di approccio musicale poi quello che era la nostra esperienza più legata alle nostre radici, no? Al posto da cui venivamo, e quindi l'immissione di tutta la cultura, insomma, parte della cultura musicale del Mediterraneo, per esempio. Il dub si addice molto a quello che sono le contaminazioni. E infatti noi, insomma, le prime volte abbiamo ascoltato, siamo stati colpiti da dischi dub, erano dischi che sembravano venissero dall'Africa, invece assolutamente non era così, per Sì. esempio, erano dischi fatti a Londra, insomma. E nello specifico le cose principali a cui noi siamo molto debitori, e sicuramente l'ONU Sound, no? L'etichetta di Adrian Sherm, tutte le produzioni che lui ha fatto, che è, diciamo, il maestro del dub europeo, inglese, e infatti poi ha missato Sanacore. Poi vabbè, insomma, la scena di Bristol, in special modo Massive Attack, insomma, mi ricordo che abbiamo ascoltato per la prima volta Blue Lines, che è il loro primo album, pure lì siamo rimasti molto colpiti, addirittura facevamo un pezzo, una cover di Save From Harm, che è un loro pezzo molto famoso, e poi il versante americano del dub, che è Bill Aswell. Quindi, insomma, tutti questi tre artisti, tra l'altro, sono, queste tre esperienze sono esperienze con cui noi abbiamo collaborato in vari episodi discografici, il che ci ha riempito di grande soddisfazione. Ci ascoltiamo un'altra canzone da Dub Fellas Volume 2, Alma Megretta, in questo caso Didn't Leave Nobody, e tra poco torniamo a chiacchierare, oltre che ascoltare attorno a questo disco. Didn't Leave Nobody, questa è la sperimentazione che gli Alma Megretta stanno facendo già con il primo Dub Fellas, si è arrivato anche il secondo. Tra poco ascoltiamo un altro pezzo, si chiama Drop and Roll. Raccontaci un po' di questa canzone che stiamo per ascoltare, Gennaro. Drop and Roll nasce da un'idea di Paolo Polcari, il nostro tastierista, vabbè, che è poi il mio interlocutore principale, insomma, quando facciamo i dischi la produzione, insomma, è affidata soprattutto a noi due, insomma. E poi si è aggiunta la voce di Marcello, di Marcello Coleman, che ha dato una connotazione molto blues. E poi c'è un campione di voce che, insomma, viene da extra-occidentale, diciamo, quindi c'è questa commistione abbastanza strana tra il blues, che è un'espressione afroamericana, e altra parte del mondo geograficamente molto distante, che però sta molto bene insieme. Diciamo che questo pezzo potrebbe essere un pezzo molto programmatico per quello che c'è, una sorta di carta di presentazione del nostro progetto, perché il nostro progetto si è sempre fondato sull'incontro di culture diverse. Per noi, proprio oggi, in questo momento, è un discorso che diventa importantissimo. Sì, decisivo credo per un po' il futuro di tante cose. Allora ce lo ascoltiamo con un vero piacere, Drop and Roll, qui su Latina Sonora, Radio Alma, torniamo tra poco. Drop and Roll dal bellissimo Dub Fellas Volume 2, stiamo parlando con Gennaro. degli Alma Megretta, e con lui raccontiamo ancora questo disco ascoltandolo, facendolo ascoltare ai nostri ascoltatori. Qualcuno magari lo avrà già acquistato, qualcun altro lo starà ascoltando la prima volta con noi, ed è bello che l'anfitrione di questo sia tu, Gennaro, così ci racconti anche dei piccoli particolari che altrimenti, insomma, non avremmo mai conosciuto. Parliamo adesso di Rescue, che è la prossima canzone che ascoltiamo. Qui c'è la partecipazione di Reis, che insomma è stato all'inizio con voi, poi ha intrapreso una carriera solista e è tornato in qualche collaborazione. Per un periodo è stato, insomma, anche un po' il timbro di riconoscimento degli Alma Megretta. Adesso come avete utilizzato il suo intervento invece in questo disco? Ma siccome ho detto prima, le voci sono utilizzate molto come strumento, e la voce di Rino si addice particolarmente per questo tipo di approccio, e quindi non è sicuramente un racconto che lui fa, ma sono delle sensazioni che insomma esprime, e quindi la voce è usata in questo senso. E sicuramente, vabbè, insomma, l'apporto con Raiz è cambiato, ma non si è mai interrotto, insomma, nel senso che lui non fa parte più stabilmente di questo progetto, ma fa parte insomma della storia, vostra vita, della famiglia Alma Megretta, insomma, certo. Ha dato moltissimo a questo progetto, e quindi cioè non ci sono motivi per cui il rapporto non dovesse continuare. Tra l'altro abbiamo fatto pure tutta una serie di concerti live dopo che lui ha intrapreso la carriera solista, e quando poi ci ritroviamo sul palco è come quando come se ci fossimo lasciati il giorno prima, insomma, certo. Abbiamo passato talmente tanto tempo insieme che sappiamo benissimo sul palco sia lui che fa, sia pure lui sa benissimo quello che si può aspettare, insomma, dagli altri musicisti sul palco, per cui si crea sempre un grande interplay, che è una cosa molto importante. Bene, ce l'ascoltiamo, e poi dopo l'ascolto di questa canzone vorrei proprio approfondire la parte live relativa non solo a Alma Megretta, ma a questo tipo di genere musicale, in particolare il dub, del quale vi siete occupati. Tra poco. Raiz che torna con il suo intervento in questo disco in Rescue, appena ascoltata. Tra poco ci ascoltiamo Foolish Dub, un altro episodio degli 11 che sono inseriti in questo disco. Queste canzoni, caro Gennaro, voi le presentate anche dal vivo? C'è appunto la possibilità di ascoltare dal vivo, oppure sì, sono un po' complicate da riprodurre? No, vabbè, queste non tutte, perché certo, per un fatto di... perché essendo noi un gruppo che ha una storia consistente alle spalle, non possiamo poi andare dal vivo e fare solo l'ultimo disco, quindi dobbiamo sempre fare un discorso un po' antologico, no? Infatti nell'attuale live ci sono pezzi che sono presenti nel primo disco fino appunto ad arrivare fino all'ultimo disco. E quindi chiaramente non possiamo, cioè, ci mancherebbe, poi non siamo i Grateful Dead che facevano i live di 5-6 ore, insomma, certo. Vabbè, avevano anche altri aiuti, quindi allora per fare insomma un discorso che sia su un paio d'ore, facciamo appunto degli estratti dai vari album, ma il tutto però è riarrangiato secondo l'ultimo disco, insomma, quindi il sound fa sempre poi riferimento a quello. Questa è stata una nostra costante per quanto riguarda i live, sempre riarrangiamo i pezzi secondo il sound dell'ultimo disco, in modo da fare un concerto omogeneo. E chiaramente però nel live c'è sempre l'approccio dub, no? Per cui pure lì insomma ci sono effetti, e tra l'altro poi il dub suonato dal vivo ti consente di improvvisare quasi come nel jazz, per cui è una cosa molto stimolante per chi suona, e secondo me molto rispettosa nei confronti di chi ti viene ad ascoltare, nel senso che non riproponi né i pezzi come sono sul disco, perché questa è una cosa abbastanza inutile da rincorrere, perché sono due momenti completamente diversi, cioè lo studio di registrazione e il live, perché nello studio c'hai tutta una situazione di iperprotezione, no? Di isolamento quasi acustico, sì, eccetera, mentre nel live sei esposto, diciamo, a tutto l'esterno, no? Cioè, molto spesso è il pubblico che decide della riuscita di un concerto, insomma, perché non è la musica non è una materia morta, ma insomma c'è l'interazione col pubblico che cambia proprio il tuo modo di suonare sera per sera, insomma, e questo è molto bello, secondo me, cioè consente a noi di non annoiarci, ma credo manco al pubblico. Che potrebbero, insomma, seguirvi in tutte le date e trovare sempre delle vabbè, novità, sono, un approccio. Sono, lo so ci sono dei fan che fanno un po' questo, dico, ma com'è possibile? Però loro dicono che si divertono, perché comunque ci sono sempre delle variabili. Non vogliono perdere neanche una delle vostre sperimentazioni, mi sembra giusto. Bene, caro Gennaro, ci ascoltiamo adesso appunto Foolish Dub e poi torniamo a chiacchierare del vostro bellissimo disco. Siamo ormai, credo, in un punto in cui i nostri radioascoltatori hanno già avuto un'idea abbastanza importante, visto che abbiamo già ascoltato 7 delle 11 tracce del disco, di quello che è stato il lavoro importante che avete fatto con questo disco e con questo Dub Fellas, il secondo volume. Adesso stiamo per ascoltare Once in a Lifetime. Che ci racconti di questo pezzo, Gennaro? Ma questo pezzo nasce da una ritmica che inizialmente era stata pensata per un'altra cosa e quindi questo dimostra, tra l'altro nel dub uno è proprio pratica diffusa, no? Il fatto di recuperare tutte le cose che non sono state usate in altre lavori discografici, i cosiddetti scarti, ma non sono scarti, esatto, in realtà. Che chiaramente non li utilizzi così come sono, ma li utilizzi come spunto che magari in quel determinato album non andavano bene in quel contesto, ma in un altro contesto già sai che tipo di cosa devi il discorso dentro il quale devi andare a parare, per cui poi ti organizzi e non si butta niente, insomma. No, tra l'altro, cioè, per esempio, noi abbiamo un archivio enorme sia di file audio che di file di immagini, filmati, eccetera, che ci ha lasciato Virad, insomma, quando c'è stata questa cosa assurda del suo incidente che ce l'ho tolto. E che era, diciamo, tutto il discorso che ho fatto mo sul dub, sul sound, eccetera, se siamo ancora in grado di farlo anche senza di lui e grazie a lui, perché lui veramente ci ha insegnato un sacco di cose, perché era a livello professionale aveva una grandissima competenza con le macchine, cioè aveva un rapporto quasi umano. E quindi vi ha lasciato un'eredità importante. Il fatto che noi continuamente attingiamo a questo archivio che per noi insomma, è molto importante, perché ci sono cose di grandissima qualità e poi c'è appunto il legame, no, con Stefano che certo. Continua pure nel lavoro. Infatti, tra l'altro, quest'ultimo album, le foto di copertina sono tutte foto sue. Questa è una cosa credo importante e molto bella che Alma Megretta hanno sempre fatto, insomma, da questa, come dicevi tu, inspiegabile tragedia. Bene, ci ascoltiamo Once in a Lifetime e torniamo tra poco per parlare ancora qui su Radio Alma, la terra sonora, Cuore di Poesia, del disco degli Alma Megretta. Alma Megretta, protagonisti, stiamo ascoltando il nuovo disco Dub Fellas volume 2 insieme con Gennaro Ortiz, che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti, ed è questa anche una puntata istruttiva perché appunto in un genere musicale credo che sia quello che abbia il nome più corto in assoluto, il dub, tutti gli altri, insomma, c'è anche il pop, è vero, ma è uno di quelli che hanno il più corto, ma che hanno invece una storia importante che non è appunto legata soltanto all'attualità, ma come poi ci ha raccontato, Gennaro nasce dagli anni 60 e da quello che è la sperimentazione attorno alla canzone, cioè espandere la canzone, spogliarla, scarnificarla e riproporla in altro modo. Questo c'è nel disco appunto di Emma Megretta e siamo arrivati adesso ad ascoltare Gypsy Shoes. Questa anche è un'altra bellissima canzone, anche perché forse è una delle più legate al reggae che c'è nel disco. Sì, in effetti, insomma, qui c'è un'altra volta la voce di Judy Higgins, insomma, quando lei è entrata in sala il pezzo non era assolutamente così, cioè, era molto più scarno, vabbè, comunque è abbastanza scarno ancora, ma in effetti l'idea non era ancora completamente conclusa, insomma. E lei ha avuto quest'idea di dare al pezzo questo ambiente di idea del ritorno, no? Nel senso che lei nel testo parla di, siccome lei vive in Inghilterra, dice, lì non è la mia vera casa, insomma, la mia vera casa è in Africa, e il discorso del ritorno alle proprie radici, che non è solamente il discorso del popolo nero, insomma, Certo. ognuno di noi ha delle radici da qualche parte, ma non significa tornare fisici, solamente il fatto di tornare fisicamente lì, ma di non perdere quello che sono le nostre caratteristiche principali, insomma, soprattutto poi, insomma, per il popolo nero è un discorso a parte, perché è stato sparpagliato per tutto il mondo in catene, insomma, che credo che pesi molto, no, nella storia della gente come te. Certo, è così. Allora, ci ascoltiamo questa canzone e ancora qui sulla Tela Sonora c'è una bella occasione per tutti i nostri radioascoltatori, quello di ascoltare appunto per intero il nuovo disco degli Alma Megretta. Gli Alma Megretta protagonisti di questa nostra puntata della Tela Sonora, con me al telefono Gennaro T, insomma che stiamo spremendo ben bene, un vero e proprio interrogatorio, altro che intervista, Gennaro. Ti abbiamo messo sotto, ma sai, quando, almeno questo è il mio parere, noi purtroppo abbiamo questo problema, noi italiani, di guardare sempre a quello che arriva da altri paesi e quando, non so, arriva un disco che ha magari anche semplicemente sfiorato certe ricerche e sperimentazioni, vediamo già quel disco come un capolavoro, una genialità, senza, insomma, invece guardare che la nostra nazione è al centro del mondo da quando è nata. Tu parlavi del popolo nero, ma possiamo parlare anche del popolo napoletano, che Certo, spesso è stato un ma non so, è tutto popolo. il popolo del sud, Sì, insomma, che c'è esatto, tutto il popolo del sud, io proprio credo. una diaspora, no? Pure lì. Quindi, no, Esatto. per questo io dicevo che non è, cioè, canzoni come quelle lì di prima, insomma, non vanno proprio al di là del colore della pelle, ma si tratta di tutte le persone che o fisicamente oppure culturalmente sono sradicate, perdono la propria identità e hanno proprio lo slancio di trovarne, ma magari ritrovarne un'altra, diversa da quella dell'inizio, ma che sia un'identità che consente appunto di incontrare chi è diverso da se stessi. Io, cioè, sottolineo, ribatto sempre questo discorso, perché oggi in Europa, insomma, non è che per questi discorsi non è che tiri proprio un'aria Non tira un'aria buona, buona, sì. insomma. Una cosa che mi interessava approfondire, Gennaro, è la scelta dei titoli, perché quando c'è un testo in una canzone, chiaramente il titolo è abbastanza semplice da scegliere, o rappresenta il testo scritto oppure una frase del testo stesso. Voi come scegliete appunto i titoli per queste sperimentazioni? Ma guarda, pure per quanto riguarda i titoli, nel dub c'è un approccio, che è un approccio abbastanza ironico, ma pure il fatto di fare, sai, Fellas volume 1, 2, eccetera, è una sorta di cioè, voglio dire, non è da prendere proprio sul serio, non è che in enciclopedia, insomma. Certo. È una cosa che nel DAP si è sempre fatto, insomma, un approccio molto ironico. Per esempio, che ne so, drop and roll, no? È proprio più che altro un fatto di suono che ci piaceva, insomma, e poi è stato, in questo caso è stato usato il testo in funzione di quello che era il titolo, perché delle volte, sai, inizi con dei nomi di lavorazione che poi si trasformano, e nel dub cioè, li puoi pure lasciare così, insomma. Certo, puoi lasciare quello che avevi scritto quando... Sì, cioè, c'è molto pure il nonsense nel dub, no? Sia proprio a livello di materia sonora, ma pure nei titoli. La prossima canzone che ci ascoltiamo, penultima di questo bel viaggio per questo secondo volume Dub Fellas e Amamegate, è Shy. È una delle canzoni anche più corte del disco. Che cosa ci puoi raccontare di questo pezzo? Ma questo pezzo ha avuto a livello di stesura una vita abbastanza travagliata, abbiamo fatto un sacco di tagli, stesure, eccetera, per cui proprio per questo è corto, insomma. Perché è stato tagliato più che altro. Ah, vabbè, insomma, ci stanno altre versioni più lunghe, insomma, ecco. Poi vabbè, insomma, chiaramente tu pubblichi una cosa quando sei definitivamente convinto. E questo, vabbè, un pezzo abbastanza, se dovessi inquadrarlo come genere, al di là del fatto del dub, insomma, avrei difficoltà perché non è difficile da incasellare in un genere, no? Tipo appunto reggae, rock, eccetera. E questo secondo me è una cosa, è un valore aggiunto, diciamo. Sono d'accordo. Cioè, quando io non riesco a definire una cosa, per me è un fatto positivo. Certo, perché vuol dire che è andata oltre o che comunque c'è una creazione abbastanza originale. Bene, ce l'ascoltiamo. Shy da Dub Fellas volume 2, Alma Megretta. Era Shy, siamo arrivati alla parte conclusiva del nostro racconto, anzi più che altro del racconto di Gennaro Ortiz, del Dub Fellas volume 2 di Alma Megretta, e arriviamo all'ultima canzone del disco. Come avete scelto la famosa tracklist del disco? Cioè la sequenza, anche in questo caso, è per dare una sperimentazione a chi sta ascoltando, per dare delle sensazioni anche diverse, oppure un filo conduttore lo cercate? No, certo che un filo conduttore è dato da quello che può essere un percorso più agevole nei vari prezzi e soprattutto, che ne so, per esempio il BPM, no? Oppure il tipo di ambientazione sonora. Cerchiamo di fare la tracklist è una delle cose più complicate, secondo me. Perché delle volte una tracklist sbagliata fa sembrare un disco non riuscito, fatto sì. Male. Sì, ecco. Sì. Quindi, insomma, abbiamo cercato di rendere questo viaggio all'interno dei pezzi con una certa continuità. Insomma, la tracklist non è casuale. Tra l'altro, l'ultimo pezzo è un remix, no? Sì, c'è stato un concorso. Sì, c'è stato un contest su internet e praticamente questo qui. Il pezzo che ha vinto, insomma, questo contest, e vabbè, eravamo noi che decidevamo chi vinceva, e quindi quello che ci è piaciuto di più, e vabbè, ci sono tutta una serie di remix molto validi, sono arrivati, e siccome poi il sound di questo remix è molto attuale, questo è un pezzo che sta in Vulgus. Ci è sembrato giusto chiudere con questo remix che, anche se il pezzo originale sta nel disco precedente, le soluzioni sonore che Nino la Bestia, che insomma così si fa chiamare il remixer, ha adottato, sono molto in linea con questo disco, per cui ci è sembrata una giusta conclusione della tracklist. Senti, dove ascolti? Quando è pronto il master del disco, tracklist fatta, dove lo ascolti? In studio o hai un tuo posto dove... Vari posti. Uh-huh. Nello studio non puoi ascoltare. Oggi questo lo puoi fare tranquillamente perché non hai i tempi, sai? Noi abbiamo nostra etichetta, siamo indipendenti e quindi possiamo pure aspettare, no, prima di pubblicare, Certo. non abbiamo nessuno che ti mette pressione, insomma. E quindi facciamo vari, in questo momento faccio vari ascolti, faccio pure degli ascolti mentre faccio un'altra cosa da lontano, per esempio. Cioè vari, molto vari, vari supporti, insomma. Per capire se poi il Eh lavoro sì, funziona insomma, un perché po' per. delle volte stai in studio e ti sembra che suoni benissimo perché stai in studio, vai in un altro posto e suona male, insomma. Tra l'altro è da sottolineare che anche la masterizzazione è stata fatta poi nello stesso studio a Napoli dove abbiamo mixato il tutto, che, insomma, con un nostro collaboratore che si chiama Pone, con cui facciamo pure i live, lui fa il dub nel live, ha fatto il dub nel mixaggio, insomma, è sempre lo stesso team poi che lavora sia per il live che per i dischi. Questa è una cosa molto importante, insomma, perché significa che tu hai la possibilità di fare un prodotto omogeneo, no? Sì. Quando fai le cose, le varie persone che lavorano a questa cosa ci si capisce molto più facilmente e non si perde tempo. Altrimenti bisognerebbe ricominciare sempre da capo. Detto questo, stiamo per ascoltare What Have You Done, la Bestia Remix, appunto, che chiude l'album, come ci ha spiegato Gennaro T. Dubfellas, volume 2 degli Alma Megretta. Gli Alma Megretta li trovate praticamente dappertutto, se girate un po' su internet, c'è il vostro MySpace, giusto? Sì, C'è MySpace, poi Facebook, c'è tutto. almamegretta.net, Net.net, beh, insomma, su su Facebook, vabbè, come Facebook, tutti. come tutti, Vabbè, esatto. se chi vuole caricare i brani su iTunes, ci sono, insomma. E quindi comprate questo disco perché scoprirete, per chi già conosce questo genere, troverete un disco veramente importante. Per chi ha voglia di avvicinarsi a questo genere, secondo me, questa è una grande prerogativa e soprattutto, secondo me, una delle grandi qualità di questo disco, per chi si vuole approcciare per la prima volta al dub, riesce con questo disco a farlo in maniera, tra virgolette, soft, non perché non sia vero dub o sperimentazione, ma perché il fatto che ci sia del sangue mediterraneo in questo disco lo rende appunto comunque meno freddo di tante altre sperimentazioni. Gennaro, io ti ringrazio molto per essere stato insieme con noi, è stato un piacere, devo dirti anche un onore approfondire la conoscenza del disco e anche tua, e spero che ci possano essere altre occasioni nelle quali, oltre che a parlare del disco, insomma, magari faremo chiacchiere anche intorno alla poesia e all'arte, perché so che anche di questo sicuramente Bene. sapresti insomma, darmi delle buone risposte. Ok, ti ringrazio, grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima. È stato un piacere. In bocca al lupo per tutto, Alma Megretta, ci ascoltiamo What Have You Done, ultima traccia di Dubfellas, il secondo volume di Alma Megretta, protagonisti alla tela sonora.